La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 6 novembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Un saluto a tutti coloro che ascoltano la puntata in onda il sabato mattina e un saluto a tutti coloro che ascoltano la replica del mercoledì. Cari radioascoltatori, mettetevi comodi perché questa puntata parleremo di computer science, di matematica, ma soprattutto di intelligenza artificiale. Ne parleremo con la dottoressa Grazia Bombini, studentessa di computer science presso l'Università Aldo Moro di Bari, e proveremo a parlare fondamentalmente dei contenuti di un paper, di un technical report, uscito qualche giorno fa su Archive. Buongiorno Grazia. Buongiorno a tutti. Grazia, in questo paper, di cui peraltro sei la prima autrice, si cerca di analizzare i comportamenti di due squadre di calcio. Ora, niente di particolare se queste squadre di calcio fossero formate da calciatori. In realtà queste squadre di calcio non sono formate da calciatori, ma sono formate da calciatori robotici, da robot. E quindi se dovessi spiegare il contenuto di questo paper nelle 100 parole iniziali, poi ovviamente lo andremo a esplorare meglio nel corso della trasmissione, tu come me lo spiegheresti? Allora, essenzialmente quello che abbiamo fatto è stato quello di analizzare il comportamento di due squadre di robot che giocano al Forrageling. Praticamente sono, avete presente quei robottini modello cane che giocano a pallone? Cioè è stato sviluppato un simulatore per appunto provare le varie tecniche e da qui dovremmo riuscire a definire il comportamento differente delle due di due squadre che hanno due comportamenti, uno reattivo e uno un po' più intelligente che si chiama case-based reasoning, e di qui tramite metodi di intelligenza artificiale, data mining applicato alle sequenze relazionali, riuscire a definire il comportamento di queste due ad avere delle sequenze di azioni che ne caratterizzano i vari comportamenti appunto. Perfetto, grazie, ti ringrazio per la sintesi, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione proveremo a dare il glossario, come al solito, degli argomenti che tratteremo nel corso della trasmissione, mentre nella seconda parte della trasmissione, che è la parte centrale, proveremo ad affrontare il contenuto di questo technical report uscito qualche giorno fa su Archive. A dopo. Al mio segnale. Scatenate l'inferno. Cold and dry December, my breath is blowing smoke. I know you're there, not so far. I'm tired to wait at your door outside. I know you won't let me in. Why can't you tell me? The reason why you hide. Am I going crazy? Thank you. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Caccia Fotone. Come già detto all'inizio della trasmissione, in questa puntata stiamo parlando di computer science, di matematica, ma soprattutto di intelligenza artificiale. Ecco, di questi argomenti ne stiamo parlando con la dottoressa Grazia Bombini, studentessa di computer science presso l'Università Aldo Moro di Bari, ma soprattutto autrice di un paper uscito qualche giorno fa su Archive, in cui si parla appunto di intelligenza artificiale. Ecco, Grazia, con te mi permetto di andare un pochino indietro nel tempo, e vado indietro nel tempo all'inizio non di questo secolo ma del secolo scorso, cioè all'inizio del 1900. Ecco, nel 1900 un certo David Hilbert propose 23 problemi che avrebbero dovuto essere risolti nel corso del XX secolo. Uno di questi problemi coinvolgeva appunto l'intelligenza artificiale. Siamo però nel 2010 e il concetto di intelligenza artificiale ovviamente è cambiato. E quindi, se tu mi dovessi definire l'intelligenza artificiale nel XXI secolo, che cosa è diventata oggi esattamente? È un concetto molto ampio. Di solito noi siamo abituati a vederla come quei film di fantascienza, no? In cui c'è, per esempio, tanti robot che si muovono, eccetera eccetera, però non è affatto quello oggi come oggi, intendo. È un insieme di teorie e di tecniche che si usano per lo sviluppo di algoritmi che in linea di massima dovrebbero permettere di mostrare un comportamento intelligente, ovvero capacità di ragionamento, sintesi di nuova conoscenza, perché sono le caratteristiche definite essenzialmente dall'essere umano. Tipo, noi abbiamo un problema e riusciamo a riportare questo problema in altre situazioni, e questa è proprio appunto una capacità di generalizzazione che vorremmo replicare in altri programmi, sistemi, eccetera, eccetera. E di qui poi si passa in particolar modo all'apprendimento automatico, cioè rappresenta un'area fondamentale dell'intelligenza artificiale e si usa appunto e definisce la realizzazione di sistemi che si basano su osservazioni, ovvero noi abbiamo un insieme di esempi positivi e negativi, per esempio, e di qui tiriamo fuori delle teorie, ovvero la regola che definisce quel insieme di esempi. Si usa per la classificazione, la generalizzazione, eccetera eccetera. Anche quando andiamo in Facebook, che ci vediamo spuntare il banner con la pubblicità proprio adatta a noi, là sono semplicemente regole di apprendimento automatico utilizzate per quello scopo. Ecco, Grazia, prima hai detto una parola che è la parola chiave, la parola algoritmo. Effettivamente, da dove viene la parola algoritmo e soprattutto che cosa significa per chi non è addetto ai lavori? Allora, innanzitutto l'algoritmo non è altro che un insieme di passi definiti per raggiungere un determinato obiettivo. Qua, quando siamo all'università, ci dicono sempre, per esempio, la ricetta, no? È il classico esempio che si porta per spiegare la definizione di algoritmo. Noi abbiamo degli ingredienti, abbiamo un obiettivo che è per esempio quello di fare una torta, e quindi la ricetta ci dice gli passi precisi per arrivare a quell'obiettivo. E poi mi permetto di aggiungere che la parola algoritmo viene da un matematico arabo che si chiamava Al-Khwarizmi, che è colui che in realtà inventò l'algebra. Un concetto molto importante che poi ci siamo portati nel corso del tempo e abbiamo dato alle cose più importanti che ci sono in matematica. Uno dei concetti però fondamentali che stiamo esplorando, provando ad esplorare quest'oggi, è appunto l'intelligenza artificiale e appunto la sua proprietà, per diventare intelligenza, di correggere i propri errori. Proviamo a far fare, insomma, ai robot quello che già noi autonomamente facciamo come uomini. I robot sono artificiali, ma per diventare intelligenza artificiale devono poter correggere i propri errori. E allora qual è l'importanza fondamentale di creare dei sistemi capaci di autocorreggersi? Cioè, per esempio, esistono tecniche di apprendimento che si chiamano apprendimento per rinforzo e sono sviluppate appunto per gli agenti, in cui tipo un agente compie un'azione e poi c'è il rinforzo positivo e il rinforzo negativo, ovvero se l'azione è positiva e ti permette di arrivare a un certo obiettivo, allora il rinforzo è positivo e quindi poi nella stessa azione successivamente il robot sarà più portato ad applicare la soluzione precedentemente applicata. Invece, se sbaglia, c'è rinforzo negativo, tenderà a non utilizzare più quella soluzione precedentemente adottata. Oppure, per esempio, nell'apprendimento supervisionato noi abbiamo degli esempi positivi e negativi. Quindi ci può essere una teoria che generalizza questi esempi prendendo solo gli esempi positivi e non quelli negativi. Ad esempio c'è un altro tipo di apprendimento che si chiama apprendimento per imitazione, che è solito nelle persone, tipo nei bambini imparano perché vedono altri bambini o adulti fare determinate azioni. Anche nella robotica si usa tantissimo questo tipo di apprendimento, quindi riuscire a capire che azione sta compiendo e quando, e quindi riuscire a replicarla. Quindi essenzialmente nelle scienze cognitive, per esempio, lo scopo è quello di applicare modelli di apprendimento tipici negli esseri umani alle macchine e quindi trarre essenzialmente spunto e ispirazione. Però essenzialmente io mi occupo di logica del primo ordine, quello che facciamo noi è quello di trarre delle teorie generali dagli esempi essenzialmente, e quindi di riuscire a capire qual è la parte generale, ovvero per esempio i predicati che sono in comune, a prescindere dal caso specifico. E quindi, detta in parole semplici, questi sistemi serviranno fondamentalmente per creare nuovi modelli da applicare in altri sistemi come quello umano, che è poi lo step finale effettivamente del lavoro che avete realizzato. Questo però è l'argomento di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Quindi a questo punto musica, poi torneremo in studio e nella parte centrale della trasmissione andremo a parlare del contenuto del paper pubblicato qualche giorno fa su Archive e dei modelli derivanti dal multi-agent system. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Caccia Fotone, in questa puntata in cui ci stiamo occupando di computer science, di matematica, ma soprattutto di intelligenza artificiale, lo stiamo facendo con la dottoressa Grazia Bambini, studentessa di computer science presso l'Università Aldo Moro di Bari. Come nostro solito, nella prima parte della trasmissione abbiamo definito un pochino i confini attorno ai quali ci muoveremo in questa parte centrale, nella parte in cui effettivamente esploreremo l'argomento. E l'argomento è un paper, un technical report, pubblicato qualche giorno fa su Archive. In questo technical report si parla dello studio di modelli attraverso i quali è stato possibile studiare il comportamento di due squadre di calcio composte da robot che si muovono facendo muovere un pallone, una palla. Ecco, sembra tutto bizzarro, in realtà è tutto vero. Questa cosa si chiama RoboCup ed è una Coppa del Mondo di calcio che si gioca tra squadre composte da robot. Ecco, la prima domanda che ti voglio fare, grazie, è questa: come si è arrivata a studiare questi argomenti e come si è arrivata a modellizzare il comportamento dei robot. Allora, grazie al dottorato sono riuscita a fare un periodo all'estero all'Università Autonoma Catalana, in particolar modo a Barcellona, sotto la guida del professor Ramon López de Mantaras, che dirige un centro di ricerca sull'intelligenza artificiale, ovviamente affiliato all'università. Di qui è nata praticamente la collaborazione, perché loro hanno sviluppato, grazie a una ex dottoranda che adesso sta all'Imperial College, che si chiama Raquel Ross, ha sviluppato questo sistema in cui si applica il case-based reasoning alla four-legged league, in cui lei ha sviluppato sia la parte robotica, nel senso che il programma per far funzionare effettivamente i robottini, sia ha modificato il simulatore per renderlo sempre più reale. E grazie a lei, infatti, per esempio, si è prestata ed è venuta a Barcellona a darmi una mano per aiutarmi a far funzionare il simulatore, sono riuscita ad avere i log e tramite questi poi siamo passati all'analisi. Il tutto è nato appunto dall'idea di poter utilizzare metodi di intelligenza artificiale quali l'analisi delle sequenze in questo mondo che è quello dei sistemi multiagente. L'intersezione, devo dire, che è abbastanza interessante, perché ci sono molti metodi da applicare in sistemi quali sistemi multiagenti, che adesso stanno avendo veramente un enorme sviluppo. Infatti, per esempio, RoboSoccer non è altro che un pretesto per avere delle sfide in un mondo molto particolare, quindi sia a livello di robotica e quindi dello sviluppo di tutti i robot. Infatti ci sono una serie di competizioni molto attive, e se pensiamo che l'idea è nata nel 1993, la prima competizione è stata nel 1997 e lo scopo era quello di formare nel 2050 una squadra di robot tali da poter vincere la Coppa del Mondo, nel senso che da poter battere una squadra di umani. Beh, secondo me siamo abbastanza lontani da questo, però ci sono una serie di lavori interessanti che vertono su queste cose qua. Grazie, questa è la domanda forse meno scientifica di tutte, però il gusto di fartela non me lo tolgo. Mi vorresti spiegare che cos'è questo RoboCup, che tipi di robot partecipano a queste competizioni, di quanti robot sono fatte le squadre e gli altri dati gustosi? Allora, ci sono veramente almeno una decina di competizioni diverse. Si passa dalla simulazione 2D con 11 robot, quindi per esempio ci sono intere università che si focalizzano su questo obiettivo, ovvero quello di creare, attraverso sempre metodi, non so, di intelligenza artificiale o case-based reasoning, in qualsiasi cosa, una squadra di software, di robot, capace di battere le altre squadre. E veramente se ne vedono di tutti i colori, perché i metodi utilizzati sono i più vari. E quindi abbiamo un software, simulate un software 2D, 3D, poi abbiamo gli embedded, che sono i robot, quelli completi proprio con la fisionomia umana. Poi abbiamo four-legged lee, quelli di taglia piccola, quelli di taglia grande. Poi c'è il campionato per bambini, c'è praticamente di tutto. Ed è molto bello e interessante, perché la competizione dura un sacco di tempo. Io non ho avuto ancora la fortuna né di andare né di vederla, però sarebbe molto bello riuscire a fare qualcosa per poter stare lì e vederli. Concordo con te che deve essere bellissimo vedere due squadre di robot che si scontrano fra di loro giocando a pallone, ma sicuramente avrai la possibilità di andarli a vedere. Ma torniamo al nostro paper. Nel paper, a parte la descrizione dei metodi che poi andremo a esplorare dopo nel proseguo della trasmissione, viene descritto anche un software che si chiama il Puppy Sim, che è il software che studia la modellizzazione dei movimenti di questi robot all'interno della partita. Ecco, che cos'è il Puppy Sim, da chi è stato sviluppato e soprattutto come è realizzato? Allora, il software, questo Puppy Sim, non è altro che un modo per poter simulare effettivamente i robottini, in particolare gli Aibo, quelli che sarebbero i cagnolini progettati da, costruiti dalla Sony, che giocano in questo caso a calcio, però effettivamente gli si può programmare per fare tutto. Il software è stato sviluppato perché effettivamente c'è bisogno di provare prima il programma sul simulatore piuttosto che metterlo effettivamente a regime sui robot, e poi successivamente è stato preso in mano da Raquel Ross, la collega che adesso sta all'Imperial College, ed è stato modificato per introdurre delle variabili random che vanno a definire il caso. Per esempio, non si può pensare che i robottini, quando danno un calcio alla palla, sia sempre perfetto. Ci possono essere delle cose, possono sbagliare, possono non vedere la palla, può succedere qualsiasi cosa all'interno del campo, per esempio anche solo l'attrito della palla, e quindi è un software che effettivamente va a simulare tutto quello che può succedere all'interno di una partita. Quindi a questo punto entriamo veramente nell'argomento del paper pubblicato su Archive, perché in realtà ti sto per chiedere il metodo. Nel paper vengono descritti fondamentalmente due metodi: il case-based reasoning, che hai citato prima, e quello che mi hai definito nel fuori onda il metodo del Carnegie Mellon. Uno, un metodo un pochino più interattivo, il primo, il case-based reasoning, in cui i robot interagiscono fra di loro, mentre il secondo, quello del Carnegie Mellon, in cui il robot agisce quasi autonomamente. Mi riesci a spiegare esattamente qual è la differenza fra i due, qual è vantaggioso in luogo dell'altro e come si interfacciano fra di loro, se effettivamente poi questi due metodi si interfacciano nel vostro studio? Allora, innanzitutto lo scopo di entrambi appunto è quello di vincere, solo che il case-based reasoning è una tecnica appunto di intelligenza artificiale, e quindi noi abbiamo dei casi, ovvero delle situazioni standard definite in qualche modo. Di solito si definiscono a mano, però ci sono metodi, cioè si potrebbe anche pensare di poterle definire a posteriori tramite l'esperienza, per esempio. E quindi si definisce il caso, in base a questo caso c'è una serie di azioni che in questo caso i robottini devono svolgere per poter arrivare allo scopo, e lo scopo appunto è quello di fare gol. Quindi diciamo che questo è un comportamento intelligente ed è un approccio che utilizza l'esperienza passata, perché io so che in una determinata situazione ho fatto determinati passi e sono arrivata alla soluzione, e quindi visto che va bene in quel determinato caso utilizzo quella sequenza di passi. Invece il comportamento reattivo, che devo dire a volte è veramente utile, praticamente il robot prende la palla e va a gol, cioè non si guarda attorno, non comunica con gli altri robottini, non fa niente, quindi i passaggi sono effettivamente dei casi, cioè casualmente passa la palla al proprio avversario. Invece nella stessa situazione, come abbiamo potuto dedurre grazie all'applicazione del metodo, i pattern frequenti, ovvero la sequenza di azioni frequente nel case-based reasoning, era relativa appunto al passaggio, nel senso se il robottino si trovava di fronte un avversario e accanto ci aveva un componente della sua squadra, con un'implementazione di tipo case-based reasoning sicuramente tipo il 90% delle volte passava la palla al compagno, che poi successivamente andava avanti. Invece nel comportamento reattivo il robot prendeva la palla e andava avanti e cercava di fare dribbling. Infatti abbiamo trovato sempre nel comportamento reattivo una serie di dribbling molto superiore rispetto alle sequenze che caratterizzano il comportamento case-based reasoning, cioè si è cercato di dare più importanza a un comportamento collaborativo e dunque il passaggio della palla, anche perché c'è anche un modo per far comunicare i robottini, mentre per esempio nel case-based reasoning i robottini comunicano fra di loro per dire chi definisce il caso. Invece nel reactive l'unica comunicazione che hanno è quella: ok, sto prendendo la palla, tutti gli altri si allontanano perché sennò vengono a cozzare con me. Quindi, come normalmente viene fatto in questi lavori, l'analisi l'avete fatta a posteriori. Prima avete definito il metodo, poi avete messo i robot all'interno del campo, li avete messo in mezzo alla palla, avete visto come si muovevano i robot e poi attraverso gli spostamenti, calcolando gli spostamenti, avete studiato il modo in cui si spostavano. Sì, sì, grazie, tutto grazie a un simulatore che riusciva a memorizzare su alcuni file appunto tutte le posizioni, tutto quello che succedeva all'interno del campo, e dopodiché è partita la vera e propria analisi. Loro nei lavori precedenti questo lo facevano attraverso proprio un mero conteggio, nel senso che contavano quanti gol aveva fatto il simulatore durante questa partita con i robottini, quanti fuori campo, eccetera, eccetera. Però questo effettivamente non è sufficiente. Cioè, c'è stata la ricerca di un metodo sistematico, nel senso, io so come si comportano i robottini e dunque attraverso questi pattern riesco a capire che effettivamente si comportano come avevo preventivato, e dando anche una misura della collaborazione. Grazie. Che tipo di relazione c'è fra il comportamento dei robot e il comportamento umano? State cercando di strutturare dei pattern attraverso i quali sia possibile creare un metodo di studio per il comportamento umano, oppure non c'è nessuna relazione fra il comportamento dei robot e il metodo di studio che potrà essere utilizzato per analizzare gli esseri umani? Gli ambiti di applicazione sono molteplici, perché per esempio un'analisi delle sequenze, visto che tutto è sequenza, si potrebbe applicare tranquillamente alla musica per riuscire a capire, che ne so, il genere o qualsiasi altra cosa, si potrebbe applicare anche alle relazioni umane. Infatti i sistemi multiagenti vengono utilizzati anche per riuscire a capire le interazioni che effettivamente ci sono nella società. C'è tutto un ambito di ricerca che tratta appunto di questo. Se per esempio ci sono dei giochi, per esempio The Sim, in cui ci sono una serie di agenti che si muovono a prescindere, e quindi in questo tipo di simulazioni noi potremmo ipotizzare che diamo, tra virgolette, un carattere ad un agente, e quindi poi vedendolo come si evolve nel tempo potremmo riuscire anche a capire come si muoveranno delle cose. Per esempio anche se gli agenti con le simulazioni però si usano per verificare per esempio i sistemi di evacuazione di una scuola, di una struttura, di uno stadio, e quindi si programmano, che ne so, migliaia di agenti che si comporteranno in una certa maniera e si vede col tempo che cosa avviene. Grazie, all'interno del vostro lavoro è stata fatta tutta un'analisi matematica quasi impossibile da descrivere all'interno di Cacciafotone per via del formalismo, però qualcosa lo possiamo dire. A pagina 4 viene riportata una ennupla in cui ci sono alcuni parametri in gioco all'interno del case-based reasoning. Ecco, se mi dovessi descrivere i parametri in gioco all'interno di questo sistema, quali sarebbero? Allora, essenzialmente si tiene in considerazione il campo, quindi per individuare un caso abbiamo innanzitutto la posizione relativa del robot, posizione cardinale all'interno del campo, poi la posizione della palla e il lato in cui si trova la porta in cui il robot si deve dirigere, e in più abbiamo la posizione del robot e la posizione degli opponenti. Questi servono ad individuare il caso, e quindi essenzialmente la fotografia di quello che sta accadendo in quel momento. E grazie a Raquel Ross anche c'è stata un'evoluzione, un'ulteriore evoluzione, perché lei utilizzava delle funzioni score, ovvero tipo se si trova all'interno di quell'area, allora vuol dire che il caso può essere attivato, però ti devi spostare. Questa era, diciamo, la filosofia. E quindi c'è prima una fase di adattamento. Una volta che ci si trova esattamente nella posizione definita dal caso, ci sarà una sequenza di azioni da compiere, tipo avvicinati al campo, passa, tipo avvicinati alla porta, oppure passa la palla al tuo compagno, eccetera eccetera, per poter poi effettivamente realizzare il caso. Ovviamente non tutti i casi vengono portati a termine, perché durante la sequenza di azioni può capitare una qualsiasi cosa che non permette alla fine l'esecuzione del caso. Quindi di lì si ricomincia da capo, nel senso che rimangono un attimo scoperti i robottini, adottano un comportamento di base che dovrebbe essere quello reattivo in questo caso, nel senso che tipo vanno sempre avanti. Poi quando trovano un altro caso da attivare, in questa maniera qua lo ritrovano e lo attuano. Grazie, un'ultima cosa prima di concludere tutta questa trasmissione di Cacciafotone, in cui abbiamo parlato di sistemi di simulazione, di robot, di intelligenza artificiale e di un sacco di altre cose. Se ti chiedessi di ricordare una sola cosa fra tutte quelle che hai vissuto durante la stesura di questo paper, quale ricorderesti? Barcellona. No, ci ho messo 4 mesi a Barcellona per fare il sistema e pensare a come poter definire tutte le sequenze e tirare fuori le azioni dai log, eccetera, eccetera. È stata una bellissima esperienza, mi è servita tantissimo, soprattutto a livello personale, quindi positivissima. L'ambito di ricerca poi è molto molto interessante, mi sono trovata veramente bene al centro di ricerca, proprio un'esperienza esaltante, e quindi la cosa che mi ricordo di più di questo articolo è stato proprio il mio periodo all'estero e ne sono felicissima. A questo punto si conclude la puntata di questo sabato di Cacciafotone. L'appuntamento è come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Ciao, grazie e in bocca al lupo. Grande